Cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, ma in onda ogni mercoledì. Difatti oggi è mercoledì 2 di dicembre, siamo arrivati all'ultimo mese di questo 2015, ebbene va dalle 15 alle 16 e sono difatti le 15, un minuto primo e 23 secondi. Oggi siamo partiti un attimo prima della normalità. Bene, noi di cosa vogliamo parlare? Di tante cose quest'oggi, la situazione che si sviluppa nelle carceri, l'andamento della repressione, del sistema detentivo, carcerario ed anche di quello che diciamo sono gli aspetti, se volete, più umani, direttamente umani, cioè portati sulla pelle delle persone. Questo avviene quando in un carcere una persona perde la vita. Il motivo per cui perde la vita possono essere tanti, più disperati, ma per esempio la mala sanità permette la mala sanità, cioè le persone detenute non curate sono tantissime, producono un livello di mortalità enorme, intorno ai oltre 100-120 persone morti per non aver ottenuto la cura adeguata alla patologia che avevano maturato in carcere. Poi ve ne sono 50-60 di suicidi, alcuni comprovati suicidi, altri non si sa che, e insomma il numero oscilla tra i 150 e i 200 morti l'anno nelle carceri italiane, un altissimo livello di persone morte, anche perché la popolazione detenuta è molto più giovane di quella libera cosiddetta, quella che sta fuori, e nonostante questo appunto il livello di mortalità è molto alto. Ciò significa che il carcere, questa è la prova, se vuoi, una triste prova, una drammatica prova, che il carcere distrugge, devasta le persone, le devasta internamente, psichicamente, però anche fisicamente. Molte patologie sono indotte proprio dalla reclusione, dall'assenza di aria, di movimento, di possibilità di vivere anche con difficoltà, però diciamo all'aria libera. Noi di tutto questo parleremo oggi. C'è questo problema che a seguito dell'attentato di Parigi del 13 novembre scorso c'è stato ormai una stretta anche qui di controllo sociale su molti terreni. Per esempio qui abbiamo degli articoli tirati fuori questa settimana sul controllo delle intercettazioni telefoniche, che verrà inasprito ancora di più, quello su internet molto forte, ne abbiamo parlato la volta scorsa parlando di ciò che è già il controllo su internet, è molto marcato. Considerate che quando scrivete su internet, quando aprite un sito da internet, cioè quando diciamo, vi muovete su quel terreno, sul vostro computer, potete essere controllati. Questo era vero già ieri, oggi sarà ancora più accentuato. Non solo i social network, che sono veramente dei luoghi di informazione che diamo gratis al potere, ma anche perfino le PlayStation ed altro verranno sottoposte a controllo. Quindi come vi accostate ad internet, ricordate che siete controllati. Ci sono dei sistemi per poter, non dico sfuggire, però insomma in qualche modo rallentare il controllo, però insomma importante è capire che si è controllati. Dopo l'attentato di Parigi queste misure verranno inasprite, e qui ci abbiamo degli articoli, poi entreremo in merito e ve lo diremo più dettagliatamente. Poi la questione delle penalità che lo Stato italiano paga per i detenuti tenuti in condizioni disumane o degradanti a seguito della sentenza della Corte Europea. Bene, una sentenza della Cassazione dice che questo vale anche se la condizione è cessata, cioè per esempio oggi che non c'è più il sovraffollamento che c'era 4-5 anni fa, però se un detenuto che oggi appunto vive in situazioni diciamo tra virgolette normali, anche se in carcere non è mai normale, però insomma in situazioni che non cadono sotto la sanzione della Corte Europea, però può richiedere il rimborso per il periodo passato quando era invece in situazioni di sovraffollamento, quando aveva meno di 3 metri quadrati a disposizione, cioè quando le condizioni di detenzione erano così. In questo caso lo Stato italiano è costretto a pagare, quindi tutti coloro che hanno vissuto anche nel passato, non c'è scadenza per questo ha detto la Corte di Cassazione in una sentenza che vale quindi come giurisprudenza, al pari di una legge vale. E quando, se i detenuti o detenute hanno passato periodi anche nel passato in situazioni che ricadono sotto la sanzione che la Corte Europea ha elevato nei confronti dello Stato italiano, cioè condizioni appunto celle inadeguate o perché sovraffollate o perché mancavano prese d'aria oppure passeggi inadeguati eccetera, può chiedere il rimborso. Questo è più o meno il percorso. Bene, di tutto questo parleremo prima di una questione che riguarda appunto la morte di un ragazzo, di un detenuto in carcere. Ci sentiamo tra un attimo. Allora, 15:09, entriamo in diretta. Dicevamo, vogliamo parlare prima, aprire questa trasmissione, parlare un po' su un fatto, un dramma. Ne succedono tanti in carcere, di drammi, di tragedie. Questa volta però è successa a delle persone che conosciamo, all'amico di una persona, di tante persone che conosciamo, e quindi potremmo così vedere meglio l'aspetto... come dire, che cosa succede quando un amico giovanissimo, in giovanissima età, perde la vita in carcere, è entrato tra l'altro per una stupidaggine, per qualcosa che non doveva nemmeno stare in carcere. Pensate, aveva avuto la condanna a un anno di reclusione perché aveva dichiarato, diciamo, le generalità false, quindi una stupidaggine, quasi un reato amministrativo, non è penale così, e poi si era sottratto al fermo della polizia. Stupidaggini, niente, per il quale infatti anche tanto gli hanno dato 12 mesi di detenzione. Considerate che per le nuove leggi che abbiamo più volte raccontato da questi microfoni, al di sotto dei 18 mesi, cioè di un anno e mezzo, non si va in carcere ma si va in misura alternativa, arresti domiciliari o altre cose, e invece lui era stato in carcere, quindi già questa omissione. Bene, lui si chiamava, era un ragazzo che si chiamava Eneas, aveva 29 anni, era molto conosciuto perché faceva attività teatrali con i ragazzi, eccetera. Per questa stupidaggine, appunto, finisce in carcere, e lì comincia la tragedia. Il 25 passa alcuni mesi in carcere, e il 25 settembre scorso, un comunicato della direzione del carcere di Pesaro, era il carcere di Pesaro, carcere di Villa Fastigi, la direzione dice: è morto questo ragazzo Eneas, suicidato. Questo fa scattare immediatamente intanto la rabbia, attoniti rimangono gli amici e le amiche di questo ragazzo, non credono a questa cosa, non possono credere, perché adesso ce lo racconterà un amico di Eneas, era un ragazzo che amava la vita, voleva vivere, era un portato esempio perché amava la vita, l'incontrarsi con le persone, condividere momenti di gioia, eccetera. E quindi questo gruppo di amici decide di non accettare quella affermazione della direzione del carcere, e inizia un percorso. Abbiamo qui un compagno, si chiama Mirko, che salutiamo. Ciao Mirko, buongiorno. Ciao. Allora, lui era molto amico di questo ragazzo Eneas, insieme a tanti altri, e quando hanno avuto questa notizia, ecco, intanto raccontaci com'è piovuto questo macigno che vi è piovuto in testa. Voi aspettavate che da un giorno all'altro doveva uscire, in effetti ci aveva, qualche giorno dopo era fissata l'udienza al tribunale di sorveglianza, perché doveva trasformare questo arresto, che tra l'altro non dovuto, in misura alternativa, quindi tornava a casa, invece improvvisamente arriva questa notizia, Eneas si è suicidato. Qual è stata la vostra reazione immediatamente? La prima cosa, naturalmente, non ci ho creduto, anche perché, appunto, come dicevi te, dopo poche settimane avrebbe avuto l'udienza che molto probabilmente gli avrebbe confermato le pene alternative, e perlomeno i domiciliari, e quindi poi sì, è stato questo. Poi è arrivata la conferma, e quindi di lì abbiamo cercato di portare avanti una protesta, o perlomeno di dare un nome a questa morte in carcere, perché molte volte si parla solo di una morte di un detenuto e ci si scorda, appunto, che i detenuti sono persone che hanno una storia, hanno un vissuto, e non sono dei numeri, insomma, come il carcere può far apparire. Sì, il macigno ha ancora più peso, perché Enes aveva comunque scritto delle lettere, aveva coraggiosamente tentato di lottare dentro a quello che gli stava succedendo, perché comunque la situazione non era delle più tranquille, cioè aveva litigato con un concellino, credo che si dica così, e aveva fatto un ricorso al magistrato di sorveglianza, e da lì, da quello che dice nelle lettere, lui usa questo termine, da lì hanno iniziato a farmi la guerra a tutti. Tutti intende sia detenuti, e quello che lui dice, o si evince dalle lettere che scrive, che comunque i secondini, o comunque il sistema carcerario di per sé, lasciasse che questo accadesse, e per questo inizia a mangiare meno, o a mangiare solo le poche cose della spesa, come dice nelle lettere, perché pensa che ci siano, comunque, che gli mettano delle medicine nel cibo. Non esce più all'aria, perché come scrive sempre, appena ha provato a uscire una volta è stato attaccato da altri detenuti con il beneplacito comunque della sorveglianza, e quindi si rifiutava di uscire. E comunque, dalle lettere che scrive, la situazione era drammatica. E parlando poi con l'avvocato sembrava che comunque lui l'avesse visto meglio. Questo, quella prima lettera che arriva è più o meno inizio giugno, e quindi vabbè, si pensò che era un attimo il primo momento di assestamento dentro il penitenziario, questo così. Fatto sta che passa il tempo e diciamo che anche la burocrazia si mette del mezzo, perché dopo la richiesta per i domiciliari che è stata fatta il 6 giugno, in realtà si è solo risposta, cioè viene fissata l'udienza solo il 21 ottobre, credo, sempre per questo, per colpa della burocrazia, perché comunque tardano ad arrivare dei fogli dalle caserme di Roma dove era stato fatto il fermo, quindi penso la certificazione dell'arresto, non so, cose così. E lì dentro però Enes subisce, diciamo, il sistema carcerario nel peggiore dei modi. Arriva a perdere molti chili, quello che scrive, una decina, viene ricoverato 2-3 volte in infermeria, fino a che viene trasferito da Pesaro a Ascoli per un mese in osservazione per malnutrimento e psicosi. Questo non so dirvi di più quanto riguarda. La cosa strana è che il primo giorno che poi torna a Pesaro, perché non, per legge soltanto un mese può stare in osservazione in un altro penitenziario, poi dovresti tornare comunque a quello dove eri, viene ucciso, o perlomeno quello che dicono è suicidio. Quindi il giorno stesso, il pomeriggio, vede la madre, e la sera, o perlomeno sì, il giorno dopo sappiamo che è morto. Questo cioè, certo, quindi bisogna aggiungere che il mese che ha trascorso ad Ascoli Piceno, al carcere di Casale di Piceno, è stato tenuto in osservazione alla infermeria psichiatrica. Questo fatto aggrava i sospetti, perché l'infermeria psichiatrica, non sappiamo, adesso ci sarà l'inchiesta, c'è l'inchiesta in corso, quindi la cartella clinica del carcere di Ascoli Piceno, Marino del Tronto, è stata sequestrata dal pubblico ministero. Però probabilmente in un'infermeria psichiatrica sarà stato bombardato di psicofarmaci. Questo fatto, come sanno tutti quelli che ragionano, appunto, che criticano l'uso degli psicofarmaci, aggravano la situazione. Se Eneas, per il tipo di situazione, lui si era trovato in una situazione, quello che ho capito io, che non accettava la reclusione, non l'accettava in quei termini così violente e volgare, e quindi si è ribellato a modo suo al carcere, e quindi ha subito la devastazione ancora più grave di quella che impone a tutti e tutte il carcere, che in carcere impone a tutte. E questo fatto, appunto, ha cominciato a destabilizzarlo, a sconvolgerlo. Da qui, appunto, no, è psicotico, e quindi l'hanno portato alla infermeria psichiatrica. Lì probabilmente saranno stati somministrati degli psicofarmaci che hanno accentuato, secondo me, questa iniziale era rabbia, volontà di non accettare dei soprusi, quello che poi viene chiamato dagli psichiatri psicosi. Beh, sono semplicemente una volontà di non accettare i soprusi che si subiscono, e da qui, appunto, poi la morte avvenuta il 25 settembre. C'è un'inchiesta in corso, c'è un avvocato che segue questa vicenda, i compagni e le compagne, gli amici e le amiche seguono questa vicenda, anche se è consapevolezza più o meno di tutti che difficilmente dal carcere si saprà la verità. È sempre successo così, come sapete non è il primo caso, ce ne stanno decine e decine e decine di casi in cui persone muoiono in carcere di morte sospetta, però poi le inchieste si arenano di fronte a una situazione che, per dargli il nome vero, la dovremmo chiamare di omertà. Cioè il corpo degli agenti di custodia, dei secondini, e anche la direzione del carcere fanno blocco a non dire nemmeno al pubblico ministero, nemmeno ai giudici, quello che realmente è successo, perché appunto si difendono i loro interessi di poter fare come vogliono, e quindi sarà difficile riuscire a sapere che cosa. Tuttavia il problema non è stato abbandonato così, non è stato detto gli amici e le amiche hanno detto vabbè, affidiamo a un avvocato la questione di seguire l'inchiesta, però non basta quello. E quindi si è messo in piedi una serie di attività per dire vogliamo sapere perché è morto Eneas, vogliamo sapere che cosa, perché il carcere riduce una persona che pure amava la vita e voleva continuare a vivere e a gioire, quella era la sua attitudine, le riduce in uno stato così depressivo tremendo, insomma, no? E quindi quindi si è posto il problema di cercare di capire cosa è il carcere e criticare il sistema carcerario attualmente vigente, iniziando proprio dal carcere dove era avvenuto questo crimine. E quindi si è cominciato a fare una serie di incontri non molto numerosi, molte persone hanno risposto, sia chi lo conosceva ma anche chi non lo conosceva, hanno risposto a questo appello di cercare di fare un blocco comune per capire, per criticare il sistema carcerario in generale, quello specifico di Pesaro, e soprattutto appunto per fare in modo che con la pressione pezzi di verità uscissero fuori. Il problema di Pesaro, che è un carcere periferico, mai assurto alle cronache né in positivo né in negativo, da un po' di tempo in effetti la conduzione interna era peggiorata, perché era stata messa una direttrice che veniva, che aveva un passato molto brutto, insomma, era stata in pari al carcere di Catanzaro, dove ha avuto Campobasso, dove ha avuto delle esperienze negative, e appena insediata la direzione del carcere di Pesaro aveva peggiorato la condizione. Stavano vessazioni di tutti i tipi, tipo alcune colloqui non fatti eseguire per delle cose cavillose, oppure cibi che non entravano al colloquio, altre vessazioni di questo tipo, ecco. Quindi la situazione comunque sia era veramente peggiorativa, nel senso che il livello di devastazione che pure il carcere produce comunque sia condotto, anche se condotto diciamo da persone buone, in questo caso era aggravato dalla presenza di questa direttrice molto vessatoria nei confronti delle persone recluse. E quindi si sono fatte questa serie di iniziative che poi si sono concluse, questa prima tranche diciamo di incontri, iniziative, si è conclusa con il presidio sotto il carcere di Pesaro di Villa Fastigi domenica 22 novembre. E qui appunto raccontaci, Mirko, questa esperienza. Siete andati sotto al carcere e avete parlato loro dalle finestre, i detenuti, e voi dalla strada. Sì, questo presidio, premetto che se molto probabilmente fosse stato fatto quando Enes ancora era in vita, forse avrebbe cambiato qualcosa, perché comunque un appoggio da fuori per chi sta dentro tutela anche il detenuto, perché comunque chi lo detiene non ha più quella sicurezza di poter fare quello che vuole, perché crede che magari sia una persona sola al mondo, perché comunque sì, c'è da dire che quello che è successo a Enes, un pensiero mio, è anche dato dal fatto che nessuno lì dentro pensava che avesse un gruppo che lo poteva difendere qua fuori, o che gli potesse poi diciamo dare, difenderlo appunto, perché la tragedia di Enes è sicuramente la tragedia degli ultimi, di chi entra in carcere e non ha nessuno fuori che lo aiuti e lo sostenga veramente, perché vengono sicuramente trattati in modo diverso da altri detenuti che comunque sono più sorvegliati dall'esterno. Questo per dire che dall'esterno si può fare molto in sostegno del carcere, non è vero che non serve a niente. Detto questo, il presidio di Pesaro è stato con un buon numero di partecipanti, più o meno un centinaio, è stato ricco di emozioni, sono venuti compagni da varie parti d'Italia. Questo è stato bello perché è stato un punto, spero sia un punto di partenza per un qualcosa di più concreto nella situazione carceri. E sì, abbiamo dialogato con le persone dentro, con quelle 3-4 celle che si vedevano, siamo riusciti a parlare, ma sentivamo rumore comunque anche da altre parti del carcere, quindi vuol dire che la nostra voce da dentro, il nostro sostegno è arrivato. Sì, c'è stato confermato comunque quello che già il garantista aveva scritto sulla direzione di Armanda Rossi, che era la direttrice del carcere di Campobasso. Il garantista diceva che comunque, questo lo riporto, i racconti dei detenuti hanno messo in forte evidenza un comportamento che lede fortemente la dignità umana di tutti coloro che sono rinchiusi nel penitenziario. I detenuti lamentano le privazioni anche più elementari, come ad esempio il mancato accesso di molti generi alimentari e persino i dolci in uso durante le festività, di tutti i prodotti farmaceutici di libera vendita, l'acquisto di giornali che la direttrice non ritiene idonei, tra cui il garantista. Sistematicamente viene negato ai familiari detenuti di portare qualsiasi genere alimentare. I rapporti con i familiari sono fortemente limitati, con restrizioni non previste dalla norma vigente, come ad esempio le telefonate, sia ordinarie che straordinarie. Sono vietati colloqui con persone che, pur essendo familiari, non portano lo stesso cognome. Questo è quello che faceva a Campobasso, lo sta continuando comunque a fare a Pesaro, e questo lo abbiamo verificato con i volantinaggi che sono stati fatti da alcuni compagni fuori dal carcere, e i familiari appunto confermavano questa cosa, insomma, che diciamo è stata data una stretta ancora di più alla funzione repressiva del carcere che ha. Sì. Tornando al presidio, sì, è stato partecipato, è stato bello, c'è già stata una risposta comunque dall'interno del carcere di Pesaro. Perché noi temevamo che, appunto, visto che molti detenuti si sono sbracciati, hanno parlato, hanno comunicato da dentro con le persone che stavano fuori, è chiaro che questa cosa poteva essere soggetta appunto ad azioni disciplinari, che finora invece non risultano che ci siano state. Questo conferma quello che dicevi un attimo fa: le persone in carcere vengono considerate dal sistema in generale, ma poi specificamente dalle guardie, dalla direzione, come persone isolate, come i reietti, gli ultimi di questo mondo. Quando vedono che invece queste persone non sono gli ultimi abbandonati da tutti, ma hanno un sostegno vivo, reale, presente, consistente di decine e decine e decine di persone, è chiaro che cambia l'atteggiamento del carcere. Questo è un elemento centrale. Il carcere tende a isolare, ma parte dalla convinzione che coloro che stanno dentro sono già isolati, che espulsi dalla società in qualche modo. Invece questo non è vero, però bisogna dimostrarlo che non è vero, e non è, capisco che non bisogna farsi sensi di colpa di dire se l'avessimo fatto prima, però è reale quello che hai detto, Mirko, perché e non è una responsabilità vostra né di ciascuno o ciascuna, però è un problema che di cui si deve far carico il movimento, le persone sensibili, le persone attente, non so come chiamare, cioè quelli che non accettano che la galera massacri le persone così come sta facendo. E quindi dovremmo in tutti i modi, scrivendo dentro le carceri, facendo sentire ai detenuti e alle detenute che non sono sole, primo, e dimostrando a chi li tiene in carcere che non sono soli. Questo fatto rallenta di molto la violenza, la brutalità del carcere stesso. Per chi conosce il carcere per esserci stato, sa che quando fuori da un carcere si sta in un presidio di amici, di un gruppo di detenuti, è chiaro che la conduzione di quel carcere diventa molto più dolce. La bontà del carcere non c'è, per sua natura è violento, è cattivo, è devastante, può diventare, e non c'è riforme da fare, c'è solo da esprimere una critica forte al carcere, ma reale, fattiva, presente, con uomini e donne che si presentano sotto il carcere e dicano fortemente: voi non dovete più fare queste barbarie. E in quel caso, solo in quel caso, può cambiare un po' in meglio la conduzione del carcere, anche se appunto prospettive di miglioramento del carcere non ce ne sono, l'unica prospettiva è l'abolizione del carcere in quanto tale, però intanto si può tentare di evitare che devasti così e uccida le persone, mantenendo una presenza critica, molto forte e molto critica. Bene, adesso questa, vabbè, è la prima cosa. Adesso ci prendiamo un altro stacco musicale e poi proviamo a parlare che cosa si può fare successivamente. up, he's right here on top. Don't rush it, man, you will surely lose it. I am going to burn his skin like a blazing fire. Take your time. Take time for the king is back. Take your time. Got to know who the king of the sky. Take your time. Tell them. Yeah! Here's a new face of rock and roll. Allora, 15:32, ancora in diretta. Allora, abbiamo provato a descrivere un po', diciamo, anche umanamente, oltre che politicamente e socialmente, che cosa è il carcere, che cosa produce. Crediamo che questo aspetto di, diciamo, uscire dalle questioni astratte, anche se concrete poi, perché carcere poi è una cosa sempre concreta, e parlare di un episodio specifico possa servire a far capire meglio a chi non ha mai impattato, per sua fortuna, nel carcere, né direttamente né con persone conosciute, che cos'è questa miseria umana che è il carcere, appunto. Adesso appunto gli amici, le amiche, i compagni di Enes vogliono continuare, hanno preso coscienza di che cosa è il carcere sulla loro pelle, perché hanno visto un amico, un compagno che gli è stato portato via brutalmente, e questa cosa giustamente non la vogliono accettare. Quindi hanno capito che l'unico modo è quello di continuare a criticare il carcere. Il carcere e tutte le carceri, sono 202-203 gli istituti penitenziari italiani, però partendo da quello dove è avvenuto questo dramma, quindi il carcere di Pesaro. Quindi si continuerà a criticare il carcere di Pesaro nelle forme che si riterranno opportune farlo, seguendo in questo caso, nella vicenda Enes, i due percorsi. Uno, quello di seguire, diciamo, l'inchiesta con l'avvocato, c'era per vedere di trovare qualche elemento in più che dica la verità sulla morte di Enes, e quello di una critica dall'esterno concreta al carcere. E allora, come si sta organizzando questo collettivo da qui in avanti? Allora, il collettivo è un collettivo appunto molto eterogeneo. Ci sono persone, appunto, come dicevi te, che hanno impattato per la prima volta con il problema delle carceri, invece altre persone che l'hanno vissuto proprio sulla loro pelle. E quello che stiamo tentando di fare è di conciliare un po' le varie proposte, che sono delle più divergenti anche alcune volte, ma con l'obiettivo comune, appunto, di criticare il sistema carcere per come... sì, ci sarà una parte che seguirà la via del processo, di seguire l'avvocato per fare più luce su quello che è successo a Enes, su come è avvenuta la sua morte, e invece l'altra parte che si occuperà ancora di dar sostegno a chi è dentro il carcere di Pesaro, con volantinaggi, presidi, anche con corrispondenze, non solo con il carcere di Pesaro, ma anche con detenuti di altri carceri, insomma, per far emergere far emergere questo problema che comunque esiste da tanto tempo, e anzi sembra che la situazione non vada a migliorare, ma che comunque peggiori, perché appunto, come diceva un compagno anche in assemblea, se il carcere specchia la società, e quindi i problemi che ci sono adesso nella società in carcere sono amplificati. Esatto. E infatti diciamo anche il problema del razzismo in questo episodio qua, secondo me, è stato poi cioè c'è un aggravante razzista, secondo me, perché comunque Enes era nato in Marocco, benché vivesse qua da 10 anni o forse anche di più, e questo secondo me in carcere non l'ha aiutato, perché è stato visto come un marocchino, passatemi il termine, comunque come una persona ancora più emarginata, e questo secondo me ha influenzato molto. E detto questo, sì, noi anche questa sera ci riuniamo all'Ex Nia alle ore 19 per portare avanti questa critica al carcere, con azioni sia di volantinaggio che con supporto comunque dalla parte legale, vedendo un attimo cosa ne viene fuori. E è importante anche instaurare un rapporto con i parenti, che, ma non solo di Pesaro, anche qua di Roma, che hanno persone in carcere, che se vogliono venire a parlare o comunque a condividere questa cosa, che credo che non sia facile per nessuna famiglia, comunque parlare direttamente che ci sia un parente in carcere, e noi siamo ben disposti comunque a dare una mano, ecco. Infatti è chiaro, questa vicenda, come tutte le altre drammatiche, se una cosa mette in luce, oltre la bestialità appunto del carcere, è anche e soprattutto il fatto che appunto non vanno lasciati soli, né sole, chi viene recluso in carcere. Quindi è chiaro, è importante mantenere questo gruppo di persone che si riunisce appunto ogni mercoledì e che vuole continuare a portare avanti una battaglia contro il carcere, e con tutti i mezzi possibili che di volta in volta si decidono, dal volantino, il presidio, ma anche le lettere. Ecco, questo lo diciamo sempre a questi microfoni, un elemento, un fatto importante per conoscere da dentro che cosa succede al carcere e dare anche sostegno a chi sta dentro, è scrivere lettere. Instaurare corrispondenza con detenuti o detenute è un fatto molto importante, costa poco, costa 80 centesimi è il francobollo di una lettera, e il poco tempo per scriverla la lettera e per leggere quella che si riceve, e questo fatto aiuta molto chi sta dentro, perché non fa sentire soli, permette di spiegare tutte le vessazioni che si subiscono, che poi si possono, noi da fuori le possiamo diffondere. Considerate che chi sta dentro non ha questa possibilità di parlare agli altri, alle persone, di mettersi in mezzo alla strada e dire succede questa cosa, loro in strada non ci possono stare, non ci stanno reclusi, il muro sta lì per dividerli. Allora, noi lo possiamo fare, possiamo farlo, possiamo andare, lo facciamo da questa radio da tempo, possiamo andare in una piazza, in un centro sociale, ovunque, e urlare, strillare che cosa fa il carcere alle persone, la devastazione, il massacro, fino appunto all'uccisione. Questo lo possiamo fare, per cui è importante stabilire corrispondenze epistolari con chi sta dentro, e in base alle conoscenze che si hanno poi portare avanti la nostra battaglia. Qui a Roma abbiamo diversi istituti penitenziari, c'è Re Bibbia, uno dei più grandi d'Europa, c'è Regina Coeli, uno dei più vecchi d'Europa, ci sta il minorile di Casal del Marmo, c'è il femminile sempre nel complesso di Re Bibbia, ci sta il reclusorio, ci stanno tante strutture carcerarie, come ovunque appunto ce ne stanno tante in Italia, e dentro questi posti, questi carceri, ci stanno degli uomini e donne devastati, che non chiedono altro che una comunicazione, cioè un rapporto con chi non è ancora entrato in carcere, però, come diceva appunto anche Mirko prima, sempre più il carcere si espande e diciamo contempla quelle restrizioni anche con chi tra virgolette è libero o crede di esserlo, e quindi è importante anche per noi stessi occuparci del carcere. Il carcere sta lì per rappresentare, per terrorizzare tutti quanti, soprattutto coloro che fanno parte delle classi non abbienti, cioè delle classi sociali che stanno agli ultimi posti della scala sociale, e questo è importante. Per cui lui ricordava l'appuntamento oggi pomeriggio, ogni mercoledì alle 19 ci si vede al centro sociale Ex Nia, e si vede appunto di portare avanti queste due iniziative, da una parte alcune persone che seguono la vicenda, diciamo, dell'indagine, dell'inchiesta interna, è aperta l'inchiesta, quindi l'avvocato seguirà ciò che deve fare per vedere e tirar fuori qualcosa, anche se non si hanno molte speranze che esca qualcosa di buono, e dall'altra parte che contemporaneamente portare avanti invece un'azione diretta critica contro il carcere. Si discute lì, si discuterà, si deciderà sentendo i pensieri, le idee, le inventive delle persone che partecipano a questa iniziativa. Certo, il carcere è una cosa tremenda, ormai ha 500 anni e li dimostra tutti, è vecchia, è infame, è criminale, e più passa il tempo più è inadeguata rispetto alle persone che vivono il tempo di oggi, tuttavia continua a esistere perché rappresenta quella panacea rispetto alla sicurezza. La gente ha bisogno di sicurezza, però probabilmente intende altre sicurezze, sicurezza sociale, sicurezza della salute, eccetera, cosa che la società non ti dà, e allora ti scambia la sicurezza per sicurezza rispetto a chi viola la legge, e quindi dice il carcere sta lì per garantire la sicurezza delle persone. Non è vero, ovviamente non è vero, basta aprire gli occhi sugli accadimenti di questi ultimi giorni perché si capisce che il carcere non nuoce a tutti, veramente a tutti e a tutte. Bene, Mirko, volevi aggiungere altre cose? Sì, volevo leggere solo una piccola... Abbiamo raccolto delle lettere di amici di Enes, abbiamo fatto un opuscolo, ne volevo leggere una che rispecchia un po' quello che mi diceva la madre di Enes, che lui non abbassava mai la testa, e questa è una caratteristica che non aiuta fuori dal carcere e che sicuramente peggiora la situazione quando sei dentro, e questo credo che dovrà essere l'insegnamento che Enes mi ha lasciato. E volevo leggere appunto questo pensiero prima di andare. Eneas non è entrato in carcere, né si è chiuso in una cella, non ha manciato il rancio contraffatto, non ha risposto che era d'accordo e che fosse straniero, a che fosse perdente, a che fosse un isolato tossico colpevole. No, Enes non è mai entrato in carcere, non ha mai deciso di esserne parte, non ha detto sono un infelice che potete prendere e sbattere come vi pare, violentare, offendere. No, non ha mai detto che era d'accordo ad entrare in carcere, a che le economie gli terressero la risata, e che i respingimenti, le pattuglie, i documenti, gli affittuari, le cliniche, le galere, i gestori delle cattedrali culturali e politiche potessero imprimergli il marchio della sconfitta. No, Enes ora spavaldamente guarda diritto e sorridente gli aguzzini, i mandanti, i colpevoli, i tenutari delle regole, e martiriato dai loro colpi pronuncia inesorabilmente la sua sentenza per quelli che fragili si sentono stranieri, tossici, perdenti, marchiati, infelici. Io no, io non entrerò in questo vostro carcere, no, non lo farò mai. Grazie Mirko, e Enes è sempre con noi, ciao, grazie, libertà per tutti e tutte. Cuando vengo sé que alguien me trama, degeneras a mí en el fuerte y no se calla, porque no creo en toda esta falsa propaganda. No mi rua se abre, todo da vuelta, se derrama, porque el movimiento sigo y lo reviento, ausento el viento con lo que presiento. Influyo, influyo en pensamientos tuyos, no me espero al golpe, lo persuado o rehuyo, porque cuando siento, siento en las entrañas, sé bien que el alcohol no se combina con la llama, porque no creo en toda esta falsa historia, la castigo a frente y no rodeando la muralla. Te miras a lo que creo que es mejor para mí, desconociendo la Allora, riprendiamo in diretta dopo questa parentesi, ma non è una parentesi, per noi è la norma. Cerchiamo di portare sempre la discussione sul carcere non tanto in valutazioni di carattere generali, ma facendo capire che lì dentro c'è ci sono persone vere, carne, sangue di esseri umani devastati, distrutti da un sistema tra l'altro inutile, oltre che violento e devastante. È inutile perché i testi che dimostrano l'inutilità del carcere, anche dal punto di vista della loro intenzione, quella descritta, cioè del reinserimento sociale, rieducazione, non sono veri. Quegli obiettivi non li raggiunge il carcere raggiunge un obiettivo che è quello di devastare, distruggere le persone. Vabbè, quindi prendiamo che cosa sta succedendo concretamente. Dicevamo in apertura, i fatti di Parigi, gli attentati di Parigi, hanno messo in moto un meccanismo di aumento del controllo sociale, che non c'entra niente con quello che è successo lì né con quello che potrà succedere, cioè attentati. Non è che il controllo sociale rallenta la possibilità di fare attentati, non c'entra niente questa cosa serve, questo aumento del controllo sociale, lo vedete anche in giro, le metropolitane sono così piantonate da persone armate, tutte cose abbastanza inutili e che però appunto possono cercano di strappare il consenso alle persone, perché dicono: vedete, lo Stato vi protegge. Non è assolutamente in questo modo. Le devastazioni fatte a livello mondiale si ripercuotono in questi fatti orribili, però è chiaro che il prodotto è il prodotto di rapine, devastazioni, abbrutimenti, impoverimenti di aree del mondo. Comunque, quello che sta succedendo in Italia, anche il ministro della giustizia italiano Andrea Orlando ha accettato di estendere le intercettazioni già pressoché totali sulla telefonia mobile anche ai sistemi che viaggiano in internet. Quindi pensate che quando si parla col cellulare si viene intercettati, e su questo penso che già la consapevolezza era abbastanza nota. Adesso anche le chat, i videogiochi e tutte le piattaforme esistenti, sia quelle per scaricare musica e film, sia quelle per scambiarsi messaggi. I social network da sempre sono un sistema di controllo sociale e lo diventeranno ancora di più. Questo è perfino le PlayStation. Tra l'altro il ministero della giustizia, prima quello francese, poi quello italiano e tutti gli altri a cascata, hanno fatto un'interpellanza, non ti hanno chiesto ai tecnici della Sony che ha costruito queste PlayStation, e la Sony ha riconosciuto che sì, è vero, anche attraverso i videogiochi si possono mandare messaggi tra terroristi, come se vuol dire. Ma questo è normale, questo è tutto, non è il problema. È chiaro che qualunque strumento di comunicazione umana può permettere di trasmettere, oltre atti d'amore, di amicizia, anche messaggi terroristici. Questo è naturale, è sempre così fin da quanto l'uomo è comparso su questa terra, quindi anche tra gli animali esiste questa cosa, quindi è del tutto cretino questo modo di dire: adesso per evitare gli attentati controlleremo tutti i mezzi di comunicazione. Vabbè, è abbastanza deficiente, però appunto questa cosa. La settimana scorsa, se avete ascoltato questa trasmissione, abbiamo parlato della scarceranda attualmente in corso, che ha un articolo bel ponderoso in cui spiega i meccanismi di controllo appunto di tutte le attività in internet e qualche consiglio per difendersi dal controllo, dall'intercettazione. Questo è stato scritto prima che avvenissero i fatti di Parigi, quindi quello che dicono coloro che hanno scritto questo articolo sono ancora più veri, diciamo, dopo gli attentati di Parigi. Tra l'altro, se volete saperne di più, appunto, se partecipate alle presentazioni di Scarceranda prossimo avventuro, prossimamente se vedete sul sito di Radio Onda Rossa o sentite i messaggi, ve ne sono tantissime nei prossimi giorni, e quindi potete anche fare delle domande ai compagni che hanno scritto, che se intendono un po' dei meccanismi in internet, vi chiedere delucidazioni e qualcosa per difendersi da questa invasività del controllo informatico. Bene, ci sono delle riflessioni chiaramente da parte di alcuni giornalisti su questo fatto che è successo. Qualcuno fa il confronto tra queste misure di controllo che viaggeranno per internet in vigore, già sono in vigore, scattate subito dopo appunto il 13 novembre ed altre successe dopo la famose torri gemelle, no? Che crolla, quindi dopo il Patriot Act, che fu la legge speciale voluta da Bush che appunto voleva mettere un freno, anche allora si diceva l'attentato alle Torri Gemelle nel 2001 si disse con faciloneria e anche con una dose di stupidità notevole, erano dovute alla mancanza di controllo. Il Patriot Act fu una legge speciale molto dura, agli americani tolse tre quarti delle libertà che avevano, ai cittadini americani, a quelli che transitavano per gli Stati Uniti d'America ancora di più, eppure non ha tolto nessun elemento per gli abusi che ne seguirono. Alcuni fecero proprio delle prove che non provocarono ovviamente né morti né feriti per violare le norme di sicurezza, e le violarono tranquillamente, perché non è che il controllo dei gendarmi che si fermano ciò che succede nel mondo, no? I problemi nascono da situazioni economiche, sociali e politiche, e su quel terreno economico, sociale e politico si possono risolvere. Mai, se si risponde con il controllo poliziesco ai problemi politici o sociali, è chiaro che non si fa che aggravare la situazione. Questo avverrà anche in Italia, quindi aspettatevi un super controllo nelle attività di internet che tutti noi pratichiamo, perché ormai è impossibile non lavorare in internet attraverso gli strumenti, però con moderazione va fatto, perché lì appunto si portiamo le nostre tutto quello che abbiamo dentro, le portiamo a conoscenza di chi le potrà usare anche contro di noi. Quindi in campana, attenzione, non sempre tutto deve viaggiare per internet, anzi si può riprendere la normale comunicazione vis-à-vis. Le persone si incontrano, parlano, discutono e decidono, è molto più umano, oltre che essere anche molto più sicuro. Questo è l'insegnamento che prendiamo. Tutto questo non finisce qui, il controllo, perlomeno quello che ci dicono gli articoli di questa settimana, viene messo in piedi un PNR, tutte queste sigle, che significa un Passenger Name Record, vuol dire vengono dati dei numeri per ogni viaggio aereo che si fa, per ogni biglietto, addirittura prima del viaggio, per ogni biglietto aereo acquistato, vengono messi su questo grosso database il nome, cognome, gli anni, tutti i dati della persona che ha acquistato quel biglietto e tutto questo database permette di conoscere i movimenti delle persone. Anche un altro elemento, quindi verrà tutto messo in un unico calderone e quindi si saprà tutto di tutti e così via, tutto è un meccanismo, ancora di più quelli intercontinentali oltre quelli europei. Per quanto ci riguarda vengono monitorati, quindi sul movimento intercontinentale verrà fatto un grosso database e si saprà Tizio e Caio, se si vuol sapere Tizio e Caio, gli spostamenti che ha fatto nella sua vita, il giorno dopo è andato lì, poi è tornato qua, poi da là. Cioè è una cosa abbastanza, nemmeno il Grande Fratello prevedeva un controllo così totale e asfissiante, e questo è un problema. Andiamo velocemente avanti, comunque questa cosa insomma era da aspettarsela, in parte era già esistente, è stata soltanto aggravata, si tratta di stare un po' in campana. Dicevamo la Corte di Cassazione ha deciso che è retroattivo l'eventuale rimborso che lo Stato italiano deve dare a quei detenuti o detenute che hanno vissuto anche un solo giorno comunque in situazioni non ritenute consone, quelle per cui la Corte europea ha sanzionato lo Stato italiano a suo tempo. Quindi se il numero dei metri quadrati a disposizione era inferiore ai 3 metri, se i passeggi erano inferiori a un tot metri per persona, se l'areazione delle celle era non consona, per tutte queste cose, anche se oggi sono cessate, perché adesso il sovraffollamento che era esploso nel 2010-2011 è sceso di molto, dai 69.000 del 2011 si è scesi a 52.000, quindi si è molto ridotto, non in tutte le carceri, però in gran parte delle carceri il sovraffollamento così spaventoso si è ridotto, però i detenuti e le detenute possono chiedere il rimborso anche per quel periodo là, per quei periodi in cui si è stati costretti a condizioni di vita non accettabili, e per questo si chiede appunto il risarcimento. Risarcimento che consta in un giorno per ogni 10 passati in queste condizioni, oppure in rimborso, piccolo rimborso, piccole cose che però insomma possono in qualche modo dare. La Corte di Cassazione l'ha deciso in base a una persona, che è un detenuto, che ha fatto questo ricorso prima che la legge del rimborso venisse approvata, attenzione, quindi è una cosa abbastanza sembra anomala, perché ogni legge vale dal momento in cui è approvata in proseguo per i giorni successivi. In questo caso, poiché si tratta di difendere le condizioni di vita dei detenuti, delle persone, sono persone, è chiaro che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che anche per il passato deve valere questo rimborso, e la Corte di Cassazione ha comprovato. Quindi se avete avuto delle condizioni di vita anche nel lontano passato che non rispondevano alle convenzioni della Carta dei Diritti dell'Uomo per quanto riguarda le persone private della libertà, potete chiedere il rimborso, sia che state ancora in carcere sia che state fuori, e questo è un altro dato. Poi che cosa c'è ancora da dire? C'è un'avvertenza in corso, 5 giorni di sciopero degli avvocati, dei difensori, è iniziato nell'area di Napoli, ha iniziato questo percorso, perché si lamentano gli avvocati, quindi la Camera Penale di Napoli ha fatto questo sciopero alle udienze degli avvocati penalisti, perché circondario di Napoli, come in ogni altro paese, mancano i braccialetti elettronici, che in realtà sono cavigliere, con questo braccialetto elettronico, non essendoci braccialetto elettronico, il detenuto viene mandato agli arresti domiciliari. Se ci fosse il braccialetto elettronico, potrebbe essere mandato invece in misura sempre alternativa, però con possibilità di muoversi, perché il braccialetto elettronico permette il controllo.